Vado. Queste parole sono scritte da chi non ha visto più il sole per amore mille. Io le ho trovate in un campo di fiori sopra una pietra, c'era scritto così: ho difeso, la strappa di mano. Cosa poi sia successo lo sapete anche voi. Così sopra una pietra che la pioggia bagna, son tornato una notte e ho sentito una voce, il grido di un uomo che chiedeva perdono. Grazie. Facciamo ancora un applauso. Bene, Fabio.